Notte di settembre, tenebre, un'oranza funebre, chirichetti e tuniche. Organo suona una triste melodia, ma questa omelia non parla della vita mia. Volevo qualcosa di più rumoroso, ma questo prete che parla noioso. Ti prego, saluta il mio eterno riposo. Pedro, pensaci tu. Vai col tamburo e con la tromba, vai con la samba sulla mia tomba. Senti che passo e come pompa. Vai col tamburo e con la tromba. Se perditeci al Coma Cabana, dove ogni notte c'è festa. E se perditeci al Coma Cabana, sogniamo solo questo e basta. In quella spiaggia brasiliana, lì dove ballano le modelle. Se perditeci al Coma Cabana, sotto un grande tappeto di stelle. Per il fermata un no, vorrei sentire un no. Per il fermata un no, vorrei sentire un no. Triste posto, casto questo, in questa bara non ci resto. Io che ho avuto una vita da outsider, sempre fuori contesto, ancora testo stupore con la battuta comica. Ho desiderato una monaca in canonica, voglio la scomunica da una società che mi comunica valori che non mette in pratica. Ma vai col tamburo e con la tromba, vai con la samba sulla mia tomba. Senti che passo e come pompa. Vai col tamburo e con la tromba. Se perdete c'è Coma Cabana, dove ogni notte c'è festa. Se perdete c'è Coma Cabana, sogniamo solo questo e basta. In quella spiaggia brasiliana, lì dove ballano le modelle. Se perdete c'è Coma Cabana, sotto un grande tappeto di stelle. E ora che sono cenere, ti prego Pedro no, Pedro non piangere. Amor mio, io vado a non vivere sotto i piedi di gente che sa ridere. Amor mio, io vado a non vivere sotto i piedi di gente che sa ridere. E balla, canta, suona la tromba tutto il dì. E balla, canta, suona la tromba tutto il dì. Se perditeci al Coma Cabana, dove ogni notte c'è festa. E se perditeci al Coma Cabana, sogniamo solo questo e basta. In quella spiaggia brasiliana, lì dove ballano le modelle. Se perditeci al Coma Cabana, sotto un grande tappeto di stelle. Mi comprerei pure le frittelle, sotto un grande tappeto di stelle. Ci metterei anche le mie sorelle, sotto un grande tappeto di stelle. E scroccherò pure due pappelle, sotto un grande tappeto di stelle. Ma queste rime non sono tanto belle, sotto un grande tappeto di stelle.